infatti ogni tanto qualcuno spunta sopra, spunta sotto, e c'è molta gente anche in FM, sicuramente sono tedeschi, c'era anche una signorina poco fa che era fortissima. Quella è, beh, sai com'è, le donne sono forti, no? Va bene. Allora Claudio, cosa mi stai combinando in quella perla? Dai che è impegnato con la graticola, si vede che sta già preparando, Claudio, o Gioca. Sì, un attimino Giulio, perché sta chiamando Antonello da Ossi. Avanti Antonello. Ma per me la radio è chiara, non è forte, ma è chiara. Il segnale secondo me è rimasto più o meno come era. Vediamo se ti ha sentito Giulio. Giulio, hai sentito Antonello Barracuda? No, per niente. Ciao Antonello, se mi stai ascoltando. Io non ti sento. Strano, perché ti ho sempre ascoltato, mentre invece oggi, dopo tanto tempo, che tu ti fai risentire, ma non ti fai risentire da me. Vai Antonello. Lo hai ricevuto Giulio, ti sente, lui ti sente S5, ma probabilmente tu non senti a lui. No, non lo sento Giuseppe, assolutamente, ma strano, perché io Antonello l'ho sempre sentito anche dalla macchina, penso un po', non addirittura dalla stazione fissa, ma dalla macchina anche lo sentivo, non c'è stato mai nessun problema, non molto forte, però l'ho sempre sentito, ma oggi proprio niente, sarà per il tempo, non so cosa dire. Riprendi Antonio, dai, già sei a Gianfranco che fa la ponte. Sì, ho capito. Sì, ha detto Giulio che la sta posizionando questa antenna, anche se è un terrazzino, non credo che sia molto facile con questo tempo poi. Quindi non è la giornata ideale per fare questi lavori. Perché il tempo poi influisce molto, soprattutto a seconda del tipo d'antenna. Sì, molti sono, ti stavo dicendo, molti sono in FM di questi segnali, perché non si sente solo la portante, ma non la modulazione, quindi arrivano da fuori. Qualcuno è in AM, è tutto un miscuglio. Hai denunciato a me già qua? Sì, in attesa che rientrino gli altri, sì. Ok. Sì, beh, certo. Sì, beh, probabilmente sono in FM. Io non ho commutato all'FM, però sicuramente sono lì. Poi se me lo stai dicendo vuol dire che è così. Certo. No, allora, antenna Game Master, oggi Paul. Per cui, attrezzati e così almeno ci possiamo risentire come è sempre stato. Qua è Antonello. Sono rientrato io. Ha detto che sta girando l'antenna, sta cercando di posizionarla meglio, ma penso che i risultati non cambiano molto, essendo un dipolo, probabilmente anche in polarizzazione orizzontale, quindi noi siamo in verticale, qualcosa perde. Sono rientrato, signori. Sì, ti abbiamo ascoltato, lo sappiamo che sei una bomba. Ciao Roberto. Ma tu lei ha migliorato la radio, sicuramente, il segnale sei quasi 9, non è il tuo però, non capisco come mai rispetto al solito che eri 9.15, anche 9.20 certe volte arrivavi. Ok, puoi dare anche la punta di segnale, così vedi la ricezione se sta funzionando. Come arrivo da quelle parti, Antonio? Ma tu una domanda, tu sei l'iterai con la giornalieri e adesso ti sto perdendo. Sei 9, però c'è portante, c'è propagazione, non capisco quello che c'è. Giulio, ciao, buongiorno a te, c'era Gianfranco, Claudio, c'è qualche altro ancora qua sul 10. Vai Gianfranco. C'è questa signorina. Che c'è? Ma senti questa signorina che sta parlando. No, l'ho coperto Antonello Barracuda, lui era quasi 9, il segnale è arrivato a 9.5, non so, un po' di sovramodulazioni c'erano. Ciao Giulio, avanti a te. Ciao Roberto, sì, no, non lo sento io oggi, ad Antonio oggi non lo sento, se sta andando in orizzontale non è possibile poter ascoltare dalla posizione dove sono io, ma ripeto, tantissime altre volte l'ho ascoltato anche dalla macchina, per cui oggi si deve orientare e sintonizzare meglio. Va bene, dai, riprendi ancora tu, Roberto, e fai girare, vai. Sì, no, c'eravamo prima, stavo facendo discorsi tecnici con Gianfranco, poi mi sono dovuto allontanare, ho ricevuto una telefonata c'era anche Claudio che sta raccogliendo le lumache, ha sentito giù cosa fa lui, lui tiene la porta aperta di casa, il cancello prima, le lumache c'hanno un percorso, arrivano direttamente a casa, c'è il secchio, sono salgono nel secchio, non c'è bisogno di raccoglio. No, ma si è fatta un'autostrada per le lumache, e caspita, quella è una mossa molto intelligente, veramente, ha fatto bene, bravo Claudio, tu sì che te ne intendi di yoga. Vai Gianfra. Sì, un attimino che accendo la pompa di calore perché stando fermi si sente questo umido. Luca l'altro giorno mi ha mandato la foto, no? O Luca ho chiesto, non mi ricordo, la pizza con le lumache giù. Allora, è una cosa allucinante. Lui non è il caso, penso ancora alcuni giorni. E poi tra l'altro, quando è che è possibile, secondo gli ordini del governo, no? Beh, quando è che si dovrebbero accendere i riscaldamenti? Su il continente, per quanto ne so io, sono già accesi, se te lo permettono, nelle zone alte. E qua a Sassari non lo so, non ho idea. Normalmente ai primi di novembre te lo permetteva, però in Alta Italia, Turino per dire, li stanno già accendendo. Salvatore li hanno accesi a settembre in Austria. Vabbè, di quei punti lì è chiaro, c'è la verve in certi punti. Certo che sì. Beh certo, no, qui vabbè, ognuno poi se l'accende la sua completa comodità, non è quello il problema. Se uno sente offeso se l'accende e basta. Se poi vengono a protestare, se pongo pulente diventa la stufa a pelle, se così almeno risparmio qualche sacchetto di carburante. Oh, no, ma qua si sta bene, qua veramente, no, non c'è problema. Avanti Gianfra. Niente, vediamo se Antonello ha risolto qualcosa. Diciamo da me sembrerebbe peggiorato quasi, perché stanno diventando troppo forti questi segnali da fuori, quindi ti rimando a Roberto. Ma per me qua è migliorato, sei salito quasi 9-10, riprova a fare un passaggio, 9 più 5, cioè c'è picchi positivi, probabilmente qua la ricezione si è migliorato, come mi ascolto rispetto a prima, Giulio l'ha ascoltato Antonello? No, per niente, si vede che è orientato, cioè ha sintonizzato l'antenna a tutta la sua parte, se ti arriva a 9 più 5 è già un discreto segnale, ma qui proprio niente, anche perché io ho QRM a Santiago 7 oggi, quasi come tutti i giorni praticamente. La sentite da Giulio Antonello, Giulio Santiago 6 Radio C. Mi diceva Santiago 6 e Bitra, e questo lo dimostra chiaramente che non è, l'antenna non è verso la mia parte, c'è un dipolo in orizzontale, non è dalla mia parte. Antonello, devi girarla un po' se è possibile, ma sta piovendo, non è che pretendo tanto. Voglio dire, lascia perdere se non è possibile, però capisci che Roberto è tutta dall'altra parte di dove sono io, per cui non ti posso ascoltare io tu in orizzontale e io in verticale. Ok, va bene, vai Gioca. A voi invertita quindi. Aspettate un attimino, c'era qualcuno che chiamava, non vorrei che sia Mirko D'Alghero. Avanti, chi chiamava? Mirko, tu sì. Non si sente più, poco fa ho sentito qualcuno chiamando. Vai Gianfra. Sì, un attimino, mi devo allontanare, mi stanno chiamando e rientro dopo. Sì, non ho problema. Ok, vai Giulio. Ma Claudio che fine ha fatto? No, ma deve essere inapparato Claudio, perché l'ho chiamato anch'io e non l'ha preso. Evidentemente ha qualcosa di più importante del baracchino a fare a casa. Forse sta allucinando una gana graticola, sicuramente, guarda. Io mi ero allontanato poco fa, 10 minuti, un quarto d'ora fa, stavo parlando, però dice che aveva ospiti, forse la sorella, non so, i parenti, per cui doveva organizzare il pranzo probabilmente. Vediamo Antonello di nuovo. Antonello, avanti a te Mike. Quindi ha cambiato casa, Antonello, non sei più dove eri prima. Vai, metti un'antenna anziché queste filare, cos'è una filare, quindi un'antenna una verticale, se hai problemi di spazio queste game master sono abbastanza leggere e riescono a irradiare più che sufficientemente. Ok, vai giù, piano piano ti rimetti la stazione come era prima. Comunque Antonello, vai Giulio. Lo so Antonello, io non ti ho ascoltato ma ho capito, è un discorso che mi avevi già fatto tempo addietro, che avevi poche possibilità di installare un'antenna, vabbè, per i motivi che sai tu, che mi avevi anche detto, che io non dico, per cui, però come sta dicendo Roberto, con un'antenna così leggera, con la Game Master, io penso che risolvi quel problema, è quasi invisibile, è uno stilo, non niente di particolare, è un po' costosa, quello è vero, Antonio, però insomma se uno ha la passione non sarà quello che ti pregiudica, diciamo, la sopravvivenza, ci mancherebbe altro. Vabbè, dai, sicuramente mi hai ascoltato, rimetto il microfono a te e poi Roberto farà la ponte. Vai ancora, Antonio. Che radio sta utilizzando? Mi scusa, Antonio. Oh, la radio è bella chiara, pulita, forte, non posso dire niente, il segnale se poco più di 9 riesce ad andare, però purtroppo c'è molta propagazione, magari se scarvacca il segnale tuo, magari non ti ascolto più. Comunque, ma tu avevi la Turbo o la 1, cosa avevi di lì, nell'altra stazione? Bisogna accettare, io quando l'ho installata, prima di installarla, l'ho tutta inondata di grasso di vaselina, proprio nel tubo dove era uno con l'altro nel telescopico, poi sigillata con la tesolata e prima e poi vulcanizzante sopra, però diciamo col tempo sicuramente bisogna avere se regge, comunque già qualcosina dovrebbe farlo, so pronta l'altra se si tronca o se succede qualcosa, c'è una Turbo che mi avevano regalato, nuova fiammante, eventualmente c'è sempre l'altra pronta. Di nuovo a te Giulio il mic. Ok, riprendo io. Sì, va bene, intanto poi fa sempre usufruendo del ponte che mi fa Roberto, Antonè, dimmi se il tuo numero di telefono è sempre del solito o se lo hai cambiato, così eventualmente possiamo continuare a sentirci qualche volta anche con il telefono come abbiamo fatto altre volte. Confermi che il numero è sempre lo stesso, vai, mi fai la ponte Roberto. Conferma, sempre uguale Antonio. Ok, va bene, così avremo modo magari di fare, perché adesso siamo un bel po' di tempo senza sentirci, però tra non molto sicuramente ci sentiremo, anche perché siamo vicino alle feste di Natale, ma non è quello il motivo per cui ci dobbiamo solo sentire solo in quelle occasioni, ma anche in altre occasioni per cambiare quattro chiacchiere, almeno per un saluto, tutto lì Antonio, intendevo quello. E poi se è il caso anche di parlare di antenne di radio eccetera. Bene, bene, e mi dispiace Antonio, no, non riesco ancora a sentirti. Purtroppo Santiago 7 per me è il QRM, tu non arrivi a quel segnale se non riesci a superarlo. Per cui poi il solo fatto che io ti arrivo a Santiago 6, ecco, quello è già spiegato il tutto, per cui ti dovresti arrivare un pochino più forte. Bene, bene, riprendi ancora Antonio, dai. Già c'è Roberto che gentilmente fa la ponte, vai. Adesso si è abbassato un po' di segnale, 6-9, prima di 9-5, Antonio. Probabilmente forse c'è umidità, non lo so, qualche cosa che ti fa... Non è stabile il segnale, perché scende 9, 9-5, poi solleva un po' più di 9-5, poi un peluzzino meno di 9. Ok, vediamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare, perché poco fa mi sembrava Mirko De Alghero. Avanti chi vuole entrare su 10. Io il QRM ce l'ho intorno a 6, poi c'è qualcuno che sta parlando su 7, segnale di 7, ma non capisco quello che dice. Di nuovo, avanti chi chiama? No, non riesco a capire chi sia, ma che non sono quelli di Ozziri, ci sarebbe voluto Muros o Claudio per vedere se sono loro, c'è un segnale 7 che sta parlando, però non so chi sia. Ok, è già Franco rientrato o è ancora in girella? A meno che non sia Franco Binario ad Alghero, però ci vorrebbe qualcuno che riesca a sentirlo meglio di me. Tu sei Gianfranco, che è avanti, io ogni tanto ho questo 9 più 30, arriva, l'hai sentito giù? Ho visto 9 più 5, mi è arrivato questo segnale, 9 più 5, sì, no, però non l'ho sentito la radio, evidentemente non ha parlato. Volevo dire, cosa sta usando Antonello? L'Anitone, il Superstar Anitone, poc'anzi tu avevi chiesto. Alan 68. Ah, l'Alan 68, ho capito, no, perché lui ha anche l'altro, quello che ho detto io. Va bene, dai. Avanti, chi era l'amico che probabilmente non si è uscito di radio? C'era una portante bella tosta, però non c'era radio. Avanti. Ma mi hai chiamato, Roberto? Ti ho chiamato un paio di volte, ho detto probabilmente sta preparando il pranzo per il corso. No, c'era quello giù di Ozziri, ho detto che magari se li sentivi tu. Mi sembravano il segnale di Ozziri, 7 qua arrivavano, che stanno parlando ma non capisco cosa dicono. No, non sento niente, oltre il 9 sento, c'ho un QRM pazzesco dalla pioggia, sto diluviando qua, c'ho scaricato le tostatiche, quindi no. Non sento niente, vi ascolto, ciao. altro che tra... c'era anche un altro che stava provando a modulare perché usciva 9 più 30, non sei tu perché il segnale è simile al tuo, però non si sente lo stacco. Avanti, che vuole entrare qua su 10. Giunta, vuol dire che è timido. Vai aspetta Antonello di nuovo e poi Giulio. Vai Antonello. Ma questa mania dice per modulare, cazzo, la cosa che odio, va. Perché sopra modulare, metto una portante, non parlano. Ci vedi di forti, poi non arrivi in Italia, non c'è la Andriga. Vabbè, dai, rimanga in ascolto, vabbè. E beh, giù, cosa mi dice della Juve? Per carità, guarda, no della Juve, io dico della società addirittura, perché in 4 anni non sono riuscito a formare una squadra come si deve. È inutile che tu mi compri un giocatore all'anno, tipo ad esempio quest'anno hanno preso Locatelli, ma a cosa serve Locatelli? A parte il fatto che sono convintissimo, e questo l'ho detto anche nel periodo degli europei, l'ho detto, che per me non era un giocatore da Juve, ed è solo più che convinto ancora oggi, dopo averlo visto con la Juve, però c'è non altro l'attenuante che la squadra non lo ha supportato, per cui non è diciamo valutabile al 100%, ma ho una buona percentuale di quello che dico. Per me non è giocatore da Juve, e come non lo sono nemmeno tutti gli altri, tutti indistintamente, compreso Dybala, perché Dybala, se è un giocatore classe, dovrebbe essere anche un leader della squadra, invece non è niente. Hanno lasciato andare via, hanno fatto di tutto per mandare via chi ti faceva 35 gol all'anno, al campionato, e adesso si ritrovano in zona retrocessione tra un po', vedrai. Ma io la cosa inspiegabile è questo atteggiamento in campo. Cioè la Juve si è svegliata dopo che ha fatto il 2-1, 15 minuti dalla fine, non è per andare passeggiando, giochicchiando, Dybala sta mangiando chi su gol per fare l'Eurogol, e tira in porta normale anziché cercare l'incrocio del pali, ha voluto fare platea, dai, accademia, ma cazzo, quello che mi da fare, io non sono juventino, te lo ripeto, però mi dispiace tanto, una società gloriosa e prestigiosa con tutti i titoli che ha vinto, cacchio, e si mette a giocare con questi giocatori. Normalmente la Juve era un esempio per l'organizzazione societaria, non ce n'erano prime donne, tutti uguali, cioè tu andavi alla Juve e non ti comporti male, se non ti si manda, come è successo con Vidal, con Cacciares, cioè, tutti quegli altri, Tevez, tutti quelli che ha avuto, sta diventando una cosa inspiegabile. Sì, ormai è diventata una società proprio di terzo livello, non di primo livello, ma addirittura di terzo. Io parlo della società, perché la squadra, tutto sommato, anche loro hanno le loro colpe, compreso Allegri, perché lui si è convinto. Io ti dico solo una cosa, io sono tifoso da sempre della Juventus, proprio dalla mia generazione, mio padre, mio nonno, tutti quanti juventini, no? Oltre ai miei fratelli, eccetera. E devo dire questo, la Juve ha vinto sì 9 campionati di seguito, però devo dire che almeno gli ultimi 3 li hanno regalati, nel vero senso della parola. Perché? Perché non c'erano le squadre che potevano contrastarla, perché avevano giocatori ancora validi, ripeto, prima che arrivasse ad esempio Ronaldo, dopodiché hanno cominciato, quando è arrivato Ronaldo, ad essere gelosi, perché io ho letto tutte le interviste, sia di Chiellini, di quell'imbecille di Bonucci, di quella specie di cadavere di Kulusevski e altri giocatori, che erano gelosi di cosa? Di Ronaldo. Dice, giocavamo per lui, ma brutta imbecille che non sei altro. È chiaro, se è lui la punta, che quello che ti segna i gol, devi giocare per lui. E poi con chi devi giocare? Per la Madonna, devi giocare per lui, è chiaro che devi giocare per lui, e lui ti toglieva la castagna dal fuoco. Invece adesso cosa è successo? È successo che si trovano settimi in classifica con una nomina addirittura schifosa, nella stessa parola, perché qualunque juventino non è contento. Vai Roberto. Ehi, aspetta, sei diventato Antonello. Antonello ci sei? È chiaro che Giulio non riesca a sentire, non dico che deve essere favorevole perché lui c'ha tutta la collina nelle scale e gioca, però cacchio, un peluzzino, vabbè, c'è il cuore troppo alto. forse per quello. Vediamo se Gianfranco è rientrato. Io vedo questo qua che parla sempre, tu quando interrompiamo e non si capisce quello che dice. Chi sei avanti? Nulla. Gianfranco sei rientrato? Chi c'è arrivato qua su 10? Giulio, Roberto e Antonello. C'è qualche donato che vuole entrare avanti? No, si era allontanato, Gianfranco ha detto che si era allontanato. Già ritorna e già brecca, non è un problema per lui. Stavo dicendo, sì, io ne sono più che convinto, da almeno 4 anni a questa parte stanno cercando di fare un centrocampo come si deve, e non ci sono mai riuscito a comprare un centrale di centrocampo, prima di tutto non sono riuscito mai a comprare due terzini sinistri, uno Fabio e uno Reserva, perché quando Alessandro ormai è un morto, è un cadavere che lo vede camminare in campo e basta. Poi hanno comprato Chiesa, che anche lui è altalenante come giocatore, un giorno gioca bene e altri 5 male. Non è possibile, non si può. Poi non parliamo di Bernardeschi, un altro cadavere preso dalla Fiorentina. Quelli sono tutti giocatori che non vanno bene per la Juve. La Juve ha bisogno di giocatori non a parametro zero tipo Rabiot o tipo Ramsey, ha bisogno di giocatori dove devi spendere, ma la Juve non vuole più spendere perché probabilmente ha fatto troppi debiti e allora non può più spendere, e allora è costretta a comprare sempre a parametro zero, però con stipendi da 7-8 milioni l'anno, che poi vai a vendere dopo che ti sei reso conto che non servono, vai a vendere e nessuno li vuole. Perché non li vuole? Per il semplice motivo che prendono 7-8 milioni all'anno di stipendio e le altre squadre non si sacrificano con quei giocatori così bidoni a dargli uno stipendio così alto, Robè. Una cosa, secondo me, non capisco, cioè io non è che sia una persona preparatissima di calcio, ma qualcosa ho visto. Una società, la prima cosa che deve partire in una squadra di calcio, quando tu vuoi fare una squadra, indipendentemente dall'allenatore, che io Allegri mi piace come allenatore, magari all'inizio quando era Golmina ero un po' titubante, però posso dire è una persona che ne capisce di calcio, non è uno stupido, al contrario di molti allenatori che si credono chissà che cosa, ma tra l'altro chi studia Lungagliari, mamma mia. Io dico una cosa, devi partire prima di tutto dalla difesa, si deve fare una difesa organizzata, giocatori idoni a giocare uno insieme all'altro, è inutile che tu ti prendi due fluidificanti, quello se ne va avanti e non c'è un giocatore che te lo copre, come sta succedendo con Alessandro e come sta succedendo con quel bidone che a me non mi piace nemmeno, se me lo presenti dentro una coppa di d'oro, coso, Quadrado, che è tutto scenografico, lo conoscono tutti il movimento che fa, si porta sempre il pallone in quel piede lì e fa sempre lo stesso identico dribbling, ormai lo conoscete tutti e non ha ancora capito. Aveva iniziato a mandarsi fuori a lui e a coso, e Alessandro che non aveva nulla, avrei messo dei terzini veri e più dei tornati, dei giocatori che spingono e rientrano, come quando c'era il signor Pogba e l'altro, quanto si chiama, quello che l'hanno mandato via al Barcellona, che ci sta facendo nei vasi, Pjanic, c'era Marchisio all'epoca, vabbè, poi vecchia, giocatori di quelle caratteristiche lì, intelligenti e utili, non solo scenografia, perché lui c'ha troppa scenografia e troppi nomi che poi non serve a nulla, non c'hanno spirito di sacrificio e umiltà. Proprio la Juve è quello lì. Io quando vedo giocare il Milan, che non è campione, però vedo giocatori che danno l'anima in mezzo, lottano, se ne prendono il pallone e vanno e lo recuperano. La Juve fa dello dribbling, dribblano il pallone e si guardano il cielo per vedere come mai l'hanno preso. Uno di questi, prima di tutti, è Quadrado, è un giocatore secondo me inutile per il gioco della Juventus. Ma io devo dire, secondo me, che Quadrado, vabbè, ormai è la sua età, anche Quadrado, così che anche lui avrebbe bisogno di essere sostituito, perfetto. Però devo dire che in questi ultimi 2 anni, almeno in 2 anni, non parlo di quest'anno, ma in questi ultimi 2 anni ha tolto molte castagne dal fuoco, ha tolto, perché? Perché ha messo in condizioni i cadaveri, gli attaccanti che aveva, tipo che ad esempio lo stesso Dybala, lo stesso ultimamente, l'ultimo che aveva, Higuaín, ma per carità, dai, che è 4 anni la Juve che sta cercando di comprare giocatori per almeno 1 o 2 per ogni reparto, non c'è riuscita, non è riuscita a comprare dei terzini, non è riuscita a comprare dei centrali, non è riuscita a comprare un centravanti come si deve, si è affidato al rientro di nuovo di quel di Higuaín e adesso di questo morto di Morata, perché Morata è un morto, perché il Morata non ha mai si segnato con la Juve, ha fatto qualche gol così, proprio in maniera sporadica, veramente. Ancora oggi lo vede davanti alla porta, la butta fuori oppure lo segna. Sono giocatori che non servono e intanto ha speso 20 milioni per rinnovare. Ma come fai tu, un giocatore valutato 40 milioni, 45 milioni, come è Morata, e tu lo prendi per 2 anni di seguito a 10 milioni l'anno, gli hai dato già metà del suo valore. Ma mandalo via, ma per carità, il primo anno hai voluto fare un tentativo per vedere se era migliorato, ma invece è uno schifo nel vero senso della parola. Morata è un morto, non è giocatore della Juve, se no non a caso il Real Madrid, il Manchester e tante altre squadre non l'avrebbero lasciato andare via. È un giocatore che non vale, è così, un giocatorino e basta, non è un campione, è un ainetto, un ainomanno. Vai Roberto. Sì, aspetta un attimino, ma Racuto ci sei ancora? Ok, non c'è problema, ok, facciamo un attimino di bianco di nuovo, vediamo su 10 chi vuole entrare, avanti chi vuole entrare. Sì, rientro io per salutarvi, mi sono trattenuto un po' perché stavo controllando anche la propagazione che è spaventosa sui canali alti, anche in 10 metri, è terribile, 60 e mezzo pianeta. Va bene ragazzi, buon pranzo a tutti, anche io scappo a pranzo, alle prossime. E io Gianfranco, anche io tra poco vado via a mangiare, ci sentiamo al pomeriggio, tanto penso che oggi rimaniamo tutti a casa. Avanti Giulio. Ok, ciao Gianfranco, ma guarda, se so benissimo che a te il calcio non ti interessa, se voi rimaniamo cambiamo discorso, mi Gianfranco, non c'è problema. Eravamo soli, io e Roberto, e dunque siamo tutti e due abbastanza appassionati per il calcio e abbiamo intavolato questo. Gianfranco, avanti. Sì, di nuovo la signorina. No Giulio, non Giulio, ero curioso perché lo sai, non sto controllando solo la banda, se ho visto queste cose alte, ma anche i segnali bassi arrivavano con una chiarezza da paura, veramente, cioè considerando il tempo, la pioggia e tutte queste cose, insomma, c'è cioè veramente una preparazione notevole, dai 25 fino a quasi 30. Comunque, meglio così, infatti c'è un Frontex anche in 27 del 500 giù di lì, no? In quel canale c'è qualche contest. Niente, no Giulio, lo sai, io ogni tanto faccio spazio alla destra e a sinistra perché è il mio hobby preferito, quindi non potrei parlare di tutto quello che volete. Adesso magari devo scappare perché il pranzo mi hanno detto che è pronto e quindi mi stanno aspettando. Ciao a tutti e a stasera, tanto come ha detto Roberto, staremo tutti rinchiusi in casa al calduccio. Ciao. Ok, ciao Giafra, grazie comunque per la chiacchierata, dai, ci sentiamo stasera eventualmente. Bene, riprendi Roberto. Stavo aspettando che concludesse Gianfranco, dai, mi hanno chiamato anche a me, dai, vai a mangiare, vi auguro ancora un buon proseguo, se qualcuno deve mangiare, buon pranzo, buon tutto, ci sentiamo naturalmente stasera, dai, tanto come ho detto prima, ci saremo tutti chiusi, tappati in casa, ciao Giulio, ciao Gianfranco, e ciao Antonello, sistemati quanto prima l'antenna, in modo che ti ascoltino anche gli altri, ciao. Ok, ciao Roberto, grazie a te anche della chiacchierata, ciao Antonello, buon pranzo, purtroppo non ti ho potuto ascoltare, comunque mi ha fatto piacere che sia ritornato in frequenza. Ho potuto discutere con te, tra virgolette, tramite fonte di Roberto, eccetera. Bene. Ciao Antonio, buon pranzo. Sistemati, così almeno ci sentiremo direttamente in diretta. Ciao a tutti, anch'io allora chiudo. Ciao Roberto, ciao. Ciao Claudio, se sia d'ascolto, buon pranzo e buona graticola. Ciao a tutti. Ciao Claudio, non arrompentare troppo la graticola però, Sia quando si brucia la facciamo andare. Senti questa donna, la senti, io la sento benissimo oggi. Claudio. Sì, arriva, senti a volte, arriva. E anche qua più o meno quel segnale. Va bene, ci sentiamo. Ciao qua. A stasera, ciao. Anch'io scendo giù adesso, dai, così almeno vediamo a che punto è la pentola. Ciao Giulio, buon pranzo.